Sezione seconda di Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitare il sito LibriVox.org. Ideale. Poi che un sereno vapor d'ambrosia dalla tua coppa diffuso avvolsemi, o Ebe con passo d'idea trasvolata sorridendo via, non più del tempo l'ombra o dell'algide cure sul capo mi sento, sentomi, o Ebe l'ellenica vita tranquilla per le vene fluire. E i ruinati giù pel declivi o dell'età mesta giorni risorsero, o Ebe nel tuo dolce lume agognante di rinnovellare, e i novelli anni dalla caligine volenterosi la fronte adergono, o Ebe alto raggio che sale tremolando e roseo li saluta. Agli uni e agli altri tu ridi, nitida stella dall'alto, tale nei gotici delubri, tra candide nere, cuspidi rapide, salienti, condoppi al cielo, fila marmorea, sta sull'estremo pinnacol placida la dolce fanciulla degli esse, tutta avvolta di faville d'oro, le ville, il verde piano d'argente, i fiumi rigato, contempla aerea, le messi ondeggianti nei campi, le raggianti sopra l'alpe nevi, e a lei d'intorno le nubi volano. Fuor delle nubi ride la fulgida, all'albe di maggio fiorenti, agli occasi di novembre mesti. Fine della sezione seconda, registrata da Liber il 6 ottobre 2020.